Focus Economia. Buonasera, questa è Focus Economia, sono le 17.07, io sono Enrico Brivio e il numero per i vostri sms è il 349-238-6666 e vi ricordo anche la pagina di Facebook di Focus Economia. Oggi una giornata con borse piuttosto fiacche, riesplode la crisi greca, ci sono tensioni di nuovo ad Atene che coinvolgono un po' tutte le borse europee e poi parleremo anche di altre importanti questioni oggi del cambio ai vertici dello IOR e anche di RC Auto e di assicurazioni per l'auto. Ma andiamo ora con le notizie in breve. Oro in rialzo a 1257,86 dollari oggi e anche il petrolio a New York ha aperto in rialzo a 98,70 dollari. Un piccolo spiraglio di luce per i disoccupati spagnoli, un dato migliore delle stime. Certo, i disoccupati rimangono molti in Spagna, però è calata un po' più del previsto la disoccupazione a giugno con l'inizio della stagione estiva, forse anche l'impatto del flusso turistico, non si sa. Comunque il numero delle persone iscritte nelle liste del collocamento è sceso di 127.248.000 unità a 4,76 milioni, che non sono pochi certamente, ma un po' meno che a maggio. Lo spread BTP Bund è rimasto abbastanza tranquillo, se poco mosso, sui 269 punti. E si è aperta invece una discussione un po' sulle prospettive dell'Italia, su questa uscita dalla crisi che qualcuno vede più lontano, qualcuno più vicino. Il premio Nobel Joseph Stiglitz, interpellato dai giornalisti sulla possibilità per l'Italia di una ripresa a partire da fine anno, ha detto di vederla difficile. Spero che arrivi, ha detto Stiglitz, ma credo che sia molto difficile una robusta ripresa con le politiche di austerità in campo e senza riforme fondamentali nella struttura non dei singoli paesi ma dell'euro. Stiglitz ha detto che senza una vera riforma e una vera unione bancaria, senza mutualizzazione del debito, senza queste riforme è molto difficile avere una forte ripresa. E direi che non ce la sentiamo di dargli torto al premio Nobel. Forse però le persone che dovrebbero essere convinte sono soprattutto i tedeschi, Angela Merkel, i nordici, che sono i più refrattari, come sapete, a progetti come la mutualizzazione del debito e gli eurobond. Spiragli di luce invece li ha visti il ministro dell'economia, Fabrizio Saccomanni, convinto che sia possibile la piena ripresa dell'economia nel quarto trimestre di quest'anno. Sentiamo le parole di Saccomanni. L'economia sta uscendo dalla fase di recessione e sta entrando in questa fase di ripresa che del resto tutti i previsori davano per scontata. C'è uno sforzo molto consistente di sostegno all'economia che viene dalle misure che abbiamo preso in questi ultimi 60 giorni. E queste misure significano un sostegno crescente all'economia e rendono possibile la ripresa piena dell'economia nel quarto trimestre di quest'anno e poi nell'anno prossimo. Il ministro Saccomanni poi è intervenuto anche con un distinguo sulla questione del credito della pubblica amministrazione. Ha fatto presente Saccomanni, stiamo cercando di verificare che tutti coloro che dicono di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione li abbiano davvero, cosa che non mi pare marginale, perché, ha detto il ministro, siamo il paese dei falsi invalidi, dei falsi ciechi, ci sarà pure anche qualche falso creditore. Ora va bene, benissimo, insomma, andare a vedere che non ci sia qualcuno che se ne approfitta, però certo, di certo ci sono anche centinaia se non migliaia di aziende che devono fare i conti con i ritardi della pubblica amministrazione, quindi è bene che questa necessità di controlli non sia poi un alibi per rallentare di nuovo la situazione. Ma sentiamo le parole del ministro Saccomanni. Io credo che a settembre dovremo avere una mappatura completa di chi sono i veri creditori delle pubbliche amministrazioni. In quel momento lì potremo anche fare il punto sull'eventuale accelerazione di questi pagamenti che sono comunque previsti essere diciamo effettuati nel corso dei primi sei mesi dell'anno prossimo, che il primo trimestre era molto brutto. Adesso il secondo trimestre direi che è un trimestre di passaggio, di stabilizzazione, e quindi da economista penso che possa essere, come dire, prodromico ad un consolidamento della ripresa, anche alla luce delle misure che sono state prese nel frattempo, i cui effetti però sono ancora nella pipeline. Speriamo, comunque speriamo soprattutto che questa mappatura del credito della PA si sia fatta molto in fretta. Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha avanzato del resto qualche dubbio su questo ottimismo di Saccomanni. Io Saccomanni lo stimo moltissimo, ma in effetti la luce non la vedo ancora, ha affermato il presidente di Confindustria. Maggio è meglio di aprile, giugno di maggio, ma la produzione industriale a giugno è in calo dell'1,7% su base annuo. Ci stiamo stabilizzando sul fondo e verso fine anno credo che cominceremo la risalita. Quindi, secondo Squinzi, ci sono condizioni per aumentare, accelerare i pagamenti. Squinzi ha detto politicamente ci sono condizioni e spinte per aumentare l'ammontare delle risorse stanziate per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. E quindi il presidente di Confindustria, intervenendo al convegno sulle imprese italiane, ha ricordato che sono stati sbloccati 40 miliardi di euro in due anni, ma l'ammontare complessivo è molto più alto, si stima attorno ai 100 miliardi di euro. E sulla questione fiscale è tornato anche il vice premier Angelino Alfano, intervenendo sempre al convegno sulla crescita delle imprese organizzato da Confindustria. Alfano ha sostenuto che bisogna fare di più per abbassare le tasse, ma ascoltiamo le sue parole. Sul fisco occorre realizzare i due grandi obiettivi, semplificare le regole e abbassare le tasse, e il tutto non aumentando delle altre tasse per eliminarne alcune, ma tagliando un pezzo di spesa pubblica improduttiva. Secondo il ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Abbiamo bisogno di tornare a crescere in tempi rapidi, una corsa contro il tempo per dare speranza alla nostra economia. Non c'è dubbio che la situazione sia ormai veramente difficile. E il ministro ha sostenuto che siamo riusciti anche in questa situazione a prorogare l'eventuale aumento dell'IVA con l'obiettivo di eliminarlo definitivamente. Questo è stato quello che ha dichiarato Zanonato all'assemblea dell'ANIA. È condizionata al fatto che il paese riprenda. Allora abbiamo due fatti molto importanti che dovrebbero avere effetto nel corso dei prossimi mesi. Il primo è il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, quindi soldi che entrano e all'interno del sistema economico e produrranno un gettito IVA. Il secondo è la fine della procedura di infrazione e la possibilità di usare denaro in prestito per investimenti, quindi per operazioni che noi chiamiamo in sintesi a costo zero. A saldo zero, non a costo zero, quindi per azioni che consentano di fare adesso un investimento e di vedere il risultato più avanti. Anche il ministro del lavoro Enrico Giovannini è intervenuto al convegno di Confindustria sugli investimenti esteri e ha fatto presente che la ripresa economica lui la vede alla fine di quest'anno, ma soprattutto ha avvertito che i NEET, i giovani che non lavorano, quella sigla che nasconde la disperazione di tanti giovani, not in education, employment, not training, cioè quei giovani che non sono a scuola, non seguono corsi di formazione né sono occupati, dice rischiano di schiacciarci. Noi buttiamo 25 miliardi di euro l'anno di capitale inutilizzato. Sentiamo ora le parole di Giovannini. Ho trovato una disponibilità da parte sindacale anche a discutere, guardando in avanti, l'accordo sulla rappresentanza. Dopo tanti anni, firmato da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, è un segnale di un cambiamento di atteggiamento su cui dobbiamo costruire. Qual è il problema però? Oggi noi abbiamo 3 milioni di disoccupati e abbiamo 3 milioni di persone che, non essendo disoccupate, sono inattive, ma sarebbero pronte a lavorare. Abbiamo cioè un enorme bacino di persone che noi non stiamo utilizzando. Secondo dei calcoli pubblicati qualche settimana fa, per i cosiddetti NEET, cioè i giovani che non studiano e non lavorano, 18-29 anni, noi buttiamo 25 miliardi all'anno di capitale umano inutilizzato. Altro tema che è stato toccato all'Assemblea dell'ANIA, ma sul quale torneremo poi, è quello del prezzo medio delle polizze RC Auto. I prezzi delle RC Auto sono tornati a diminuire, questa potrebbe essere una buona notizia, perché il prezzo medio delle coperture è sceso di circa il 6% secondo quanto ha detto il presidente dell'ANIA Aldo Minucci. Però ovviamente un contributo lo ha dato la crisi, che ha ridotto il numero dei veicoli in circolazione e che quindi ha comportato un calo significativo del numero dei sinistri. Poi abbastanza impressionante il dato sui veicoli non assicurati nel 2012. Sono più di 3,1 milioni i veicoli non assicurati circolanti, pari al 7% del totale, con picchi nel sud, la punta estrema è a Napoli, con quasi il 30% di veicoli non assicurati. Ma su questi temi torneremo poi più avanti. E poi sul boom invece dei prezzi, per molte persone che adesso sono in attesa di un traghetto, non farà piacere sapere che l'autorità antitrust ha aperto un'istruttoria per verificare una possibile intesa restrittiva della concorrenza delle tratte dello Stretto di Messina. Cioè, in sostanza, c'è il sospetto che nell'ultimo triennio quell'aumento delle tariffe dei trasporti passeggeri fino al 150% sia dovuto ad accordi non del tutto leciti tra le compagnie dei traghetti, per cui si è aperta questa indagine su Caronte Touris, Rete Ferroviaria Italiana, Blue Ferries, Meridiano Lines, Ustica Lines, Terminal Tremestieri e Consorzio Metromare dello Stretto. Aziende che vengono imputate di aver concertato i prezzi e quindi di aver manipolato in qualche modo il mercato. Un altro effetto della crisi è che molti italiani comprano i saldi, comprano in offerta. Pensate che il 76% degli italiani, quando spende, punta a prodotti in promozioni. Si tratta di quasi il doppio del dato europeo, cioè mentre il 43% degli europei in media punta sui saldi o su prodotti in promozione, ben il 76% degli italiani lo fa. E quanto afferma una ricerca della Nielsen, per il 65% degli italiani la qualità rimane comunque fattore cruciale, con il 53% che indica però il prezzo come l'elemento più importante. Il 34% degli italiani è pronto a comprare prodotti eco-friendly, cioè che siano in linea con le direttive ambientali, indipendentemente dal prezzo, e il 63% a modificare lo stile di vita per risparmiare energia. Però rimane un 23% che ammette di acquistare compulsivamente. E poi nella serata di ieri, ma anche su questo tema torneremo, sono stati azzerati i vertici dello IOR dopo una bufera giudiziaria. Sono andati via il direttore generale della Banca Vaticana Paolo Cipriani e il vice direttore Massimo Tulli, che si sono dimesse, anche se queste dimissioni hanno avuto un po' il sapore in qualche modo di un velato licenziamento. Mentre da notizia di oggi, per l'ex presidente Ettore Gotti Tedeschi si prospetta una richiesta di archiviazione. Altre inchieste procedono. A Siena il presidente del Banco Santander Emilio Bottin dovrebbe essere sentito in rogatoria domani dal PM sinese Antonino Nastasi, uno dei titolari dell'inchiesta su MPS. Si apprende che Nastasi è partito stamattina da Siena per Madrid. Mentre invece, per una presunta maxi evasione fiscale da 52 milioni di euro che risale al 2007, il procuratore aggiunto di Milano, Francesco Greco, ha chiesto il processo per il patron dell'Ilva, Emilio Riva, per due ex dirigenti del gruppo e per un manager della filiale di Londra di Deutsche Bank. Ma ora andiamo ad approfondire il tema della Grecia. Allora, sono riprese ieri sera, in mezzo a molte difficoltà, le trattative del governo greco con la Troica. La Troica, che altro non è, come mai molti sanno, una delegazione di dirigenti del Fondo Monetario, dell'Unione Europea e della Banca Centrale Europea. Delegazione che in realtà non sembra più avere una linea così unitaria come un tempo, soprattutto dopo che la rappresentanza del Fondo Monetario sembra essere un po' meno austera e rigida sulle linea da prendere in economia e sulle misure da chiedere ai greci. E secondo le prime indiscrezioni, i negoziati non si concluderanno, come si sperava da parte ellenica, entro lunedì 8 luglio, che era quando anche ci sarà un Ecofin, un Eurogruppo, che dovrebbe dare il via libera all'assegnazione della tranche di aiuti da 8,1 miliardi di euro. Il ministro delle finanze Yannis Tournas, nel primo incontro con i rappresentanti dei creditori internazionali, ha illustrato le proposte circa tasse sugli immobili, che dovranno essere pagati in 5 rate e non in 4, come chiedevano invece inizialmente i membri della Troica, mentre resta ancora da decidere il sistema di pagamento. Ma poi, come sapete, si è parlato di altre misure. C'è stato il caso della chiusura della televisione pubblica greca, che ha dato molto da discutere, e addirittura un altro ministro ha parlato ora affermando che ci potrebbero essere chiusure di ospedali. Ma per capire meglio a che punto siamo con la crisi greca e perché questa mattina questo caso di Atene ha di nuovo mandato le borse europee sull'ottovolante, abbiamo qui con noi Vittorio Darold, giornalista del Sole 24 Ore e profondo conoscitore della Grecia. Buonasera Vittorio. Buonasera a voi. Allora, Vittorio, perché è tornato questo nervosismo questa mattina attorno al salvataggio di Atene? Perché Atene ha cominciato subito con una fibrillazione. La Reuters, l'agenzia di stampa inglese, ha dato la notizia appunto che ci fosse una specie di ultimatum, e se entro tre giorni il governo greco, che si è nel frattempo ridotto nella sua maggioranza, che quindi compone oggi soltanto il Neodemocrazia, che è il partito diciamo di maggioranza relativa guidato dal premier Antonis Samaras, e il vecchio PASOK, il partito socialista guidato da Venizelos, ha perso appunto il terzo partito minore, quello di Fotis Kouvelis di Sinistra Democratica, il Dimar, proprio sulla vicenda della televisione greca chiusa in una notte con un diktat appunto di Samaras. Ecco, questi tre giorni sono diventati un ultimatum, altrimenti la rata sarebbe saltata, o almeno una parte di questa rata da 8 miliardi, creando subito il problema che non si ripagano quindi i debiti, non si ripagano i bond in scadenza, ed ecco di nuovo affacciarsi il consueto diciamo ipotesi della Grexit, cioè dell'uscita della Grecia dall'euro. Questo è il vero problema. Allora, che cosa è successo nel frattempo? Che effettivamente il paese aveva ormai imboccato la strada dei sacrifici, del rimettersi in una situazione di austerità ma controllata, insomma di tornare a spendere quanto uno incassa e non di più, come ha fatto dal 2004, anno delle Olimpiadi, che per la Grecia sono diventate l'inizio di una tormentata esistenza, perché da quel momento i conti hanno subito un record ma negativo. Ecco quindi che allora da quel momento è nato il problema di tornare a essere più ligi nei confronti dei conti pubblici, perché ricordiamolo, la Grecia è l'unico paese dove le banche sono saltate, proprio perché i conti pubblici non erano più a posto e i bond che avevano le banche greche hanno fatto saltare le banche. Ecco, vedo qui un SMS che mi dice: la Troica, la Santa Inquisizione. Ecco, questa delegazione che rappresentava poi il mondo occidentale, i creditori, i grandi istituti, insomma, Fondo Monetario, Commissione, Banca Centrale Europea, forse però non ha esagerato, non sono stati dei medici che hanno prescritto delle medicine troppo forti per un malato molto debole. Ecco, c'è un po' l'ira poi anche di molti greci nei confronti di queste ricette di austerità, e anche alcuni economisti che sostengono che siano state troppo drastiche queste contromisure. E poi ti chiedo anche: è vero che poi all'interno della Troica non c'è più una posizione univoca, ma il Fondo Monetario pare avere una posizione più morbida rispetto ai rappresentanti della Commissione Europea? Sì, esattamente. All'inizio c'è stata una violenta campagna, perché i paesi nordici, i falchi, non volevano il Fondo Monetario, volevano risolvere la questione greca tutta da soli. Quindi ti ricorderai, Enrico, la vicenda della Merkel, che insomma vedevano questa intromissione del Fondo Monetario come un po' una perdita di prestigio per l'euro e per l'eurozona. In realtà poi alcuni paesi vollero far entrare il Fondo Monetario perché era ritenuto un falco, quindi era quello più rigoroso, che avrebbe consentito di fare insomma le cose come si dovevano fare, non con motivazioni politiche, quindi era sicuramente un elemento tecnico. Che cosa è successo? Che all'inizio è stato così, il fondo infatti ha ammesso di aver sbagliato, di aver spinto troppo l'acceleratore sull'austerity, aver quindi colpito troppo i consumi, aver depresso gli investimenti, aver quindi fatto troppo in fretta, quindi un taglio troppo in fretta di salari e pensioni. E quindi ha fatto un po' una marcia indietro. Oggi infatti il Fondo Monetario è quello che chiede una maggiore tolleranza, una flessibilità, mentre i paesi della UE, soprattutto i paesi appunto del nord, continuano a chiedere maggior rigore, ma non si sono pentiti affatto di avere applicato questa politica. C'è stato uno scontro anche su quella famosa ristrutturazione del debito, che sembrava un tabù, quindi uno Stato membro dell'Eurozona non poteva in qualche modo fare una ristrutturazione del debito, quindi poi di quelle dimensioni, 100 miliardi di perdita per tutti i detentori di bond, e poi come sapete dopo i bond sono arrivati anche i depositanti, insomma è stato solo l'inizio di una tormentata vicenda che ha visto sempre di più pagare chi ha investito. Bene, a questo punto c'è una divisione all'interno di questa troica, dove il Fondo Monetario è diventato un po' più filo Obama, un po' più filo quindi crescita, e gli europei invece che frenano, soprattutto appunto l'Unione Europea. Alla base di questa differenza c'è proprio una concezione, se vuoi, tra mondo protestante e mondo cattolico, forse anche, perché i protestanti vedono il debito come un peccato che va espiato, e quindi i greci che hanno peccato devono pagare, invece i cattolici sono sempre, questo l'ha raccontato Jean-Claude Juncker appunto in una bellissima intervista fatta a un giornale greco, il Katimirini. Ecco, io volevo chiederti però a questo punto, il PIL è crollato dal 2009 e il 2012 del 26%, abbiamo 1,3 milioni di persone senza lavoro e quasi mezzo milione che non ricevono alcun sussidio. Ecco, c'è chi dice che per tornare alla crescita saranno necessari almeno 5 anni per la Grecia. Tu pensi che ci sia qualche possibilità invece, di qualche speranza in più per una uscita dal tunnel prima per Atene? Io penso di sì, nel senso che loro hanno imboccato i fondamentali giusti, perché se tu rimani in una valuta comune, l'unico sistema è quello di fare la cosiddetta deflazione, inflazione, svalutazione dei salari, cioè devi ridurre in qualche modo la tua capacità e migliorare la tua competitività, non avendo da svalutare una moneta devi svalutare i tuoi costi e quindi i salari. Loro l'hanno fatto in maniera anche molto forte, quindi oggi effettivamente la loro competitività è migliorata molto, e anche in maniera brutale se vogliamo, ma oggi costa meno sostanzialmente andare in vacanza in Grecia, se poi è questo che, perché il grande turismo, il grande loro serbatoio è appunto il settore navale, dei noleggi, dei noli, delle marittimi e dei appunto del turismo. Quindi qui ci sono state dei forti recuperi, ci sono state anche una riduzione dei costi dei servizi, perché ci sono state una maggiore deregolamentazione. Oggi ci sono più possibilità per alcuni settori, appunto nei traghetti, nei taxi, negli autotrasporti. Oggi si può iniziare una, per esempio, un'impresa di autotrasporto in un giorno e non ci sono nessun tipo di vincolo, cosa che invece in altri paesi non è. Quindi c'è stato dei progressi, certamente non è ancora, il percorso è lungo, e soprattutto questa chiusura improvvisa della televisione ha creato un nuovo allarme nella popolazione e ha scatenato ancora tutto quel sentimento di apprensione e soprattutto di scontro, che invece sembrava sopito, e che da questa mossa un po' sconsiderata, ma che Samaras evidentemente aveva calcolato, perché pensava di dare uno shock al paese, dire individuato un elemento di diciamo vantaggio o comunque clientelismo, insomma non era molto amato, non è molto amato questa televisione pubblica greca, e quindi l'aveva in qualche modo vista come un facile bersaglio. In realtà i greci, quando hanno visto chiusa la loro televisione, che ha uno share del 13%, quindi non è molto potente all'interno dei media, del panorama media, hanno visto questo concerto, soprattutto di questa violinista che piangeva nell'ultimo giorno in cui veniva ad esserci appunto questa chiusura improvvisa anche di tutte le attività musicali della televisione greca. Ecco allora che il paese in qualche modo si è risvegliato e non si è più riconosciuto in questa mossa così, e quindi lo shock si è rivelato poi un boomerang, e si sono riprese ancora le contestazioni, si è ripreso il governo, ha perso un pezzo, insomma quel percorso che si era faticosamente iniziato è stato in qualche modo perso. Sì, speriamo insomma che si trovi un modo per razionalizzare quella macchina amministrativa, pubblica, greca, che probabilmente può essere sforbiciata in qualche modo. Però anch'io mi ricordo le lacrime di questa violinista nell'ultimo concerto dell'orchestra della televisione, molto toccanti, insomma, quando succedono queste cose, darò da pensare. Insomma, comunque speriamo, insomma, qualche barlume ci sia per gli amici greci, e anche perché poi quando un paese nell'euro sta male, stiamo tutti un po' peggio. Questo l'abbiamo imparato anche a nostre spese l'anno scorso. Grazie a Vittorio D'Arold. Grazie a voi. E quindi ci risentiremo poi con le notizie di borsa, ed ora andiamo con il meteo e la pubblicità. Buonasera, questa è Focus Economia, sono le 17.40, io sono Enrico Brivio, vi ricordo che il numero per i vostri sms è 349-238-6666 e c'è poi anche la pagina di Facebook Focus Economia. E torniamo a parlare ora di assicurazioni, RC Auto. Perché c'è stata l'assemblea dell'ANIA, l'Associazione Italiana delle Compagnie Assicurative, che ha dato alcuni dati molto interessanti sul prezzo medio delle polizze che tutti dovremmo sottoscrivere. In realtà purtroppo vedremo che non tutti le sottoscrivono, perché come dicevo ci sono 3 milioni di veicoli non assicurati in Italia, però è significativo che il prezzo medio delle coperture sia sceso di circa il 6%. Abbiamo in linea con noi, e lo ringrazio, il direttore generale dell'ANIA, Dario Focarelli, proprio per capire meglio cosa è successo. Buonasera Focarelli. Buonasera a lei. Allora, come dobbiamo interpretare questo dato? È solo figlio di una crisi che ha ridotto il numero dei veicoli in circolazione, quindi dei sinistri, o ci sono altre ragioni? Allora, innanzitutto partiamo dal dato. Tra settembre 2012 e maggio 2013 il prezzo dell'assicurazione, quello effettivamente pagato, compreso le tasse, è sceso da un valore medio di chi aveva rinnovato in settembre di 560 euro a 525 euro, quindi è una riduzione del 6%. Questo è il dato. Da cosa dipende? Allora, questi sono, diciamo, assicurati che hanno rinnovato la polizza, quindi non dipende dal fatto chi si assicura e chi non si assicura. Questi sono fattualmente gli assicurati che in quel mese, maggio e settembre, hanno rinnovato la polizza. Dal punto di vista pratico, perché è potuto succedere questo? Perché nel corso del 2012 i risultati economici delle imprese di assicurazione sono stati positivi, e l'effetto è dovuto essenzialmente a una riduzione del numero di sinistri, intorno al 10-15% a seconda della tipologia, e a fronte di questa riduzione del numero di sinistri le compagnie hanno potuto in qualche modo ridurre, diciamo, quanto chiesto, diciamo, agli assicurati. Da che cosa dipende la riduzione del numero di sinistri? Lei lo diceva bene, dipende essenzialmente, ma non solo, essenzialmente da una riduzione della circolazione. Purtroppo, abbiamo fatto un esercizio econometrico, peraltro citato anche dal Presidente Rossi dell'IVAS, purtroppo è dipeso da due fattori: diminuzione del reddito disponibile delle famiglie e aumento del prezzo della benzina. Questo spiega la parte principale. C'è poi una componente non irrilevante di riduzione dei costi dovute alle lesioni di lieve entità. È davvero una fase iniziale, una legge è stata fatta all'inizio dello scorso anno, chiedeva questa legge un accertamento strumentale. Noi abbiamo verificato che è diminuito finora quanto le compagnie hanno dovuto risarcire. Di nuovo, questo effetto è già nei bilanci e in qualche modo si è riflesso su questa riduzione dei prezzi con cui abbiamo iniziato l'intervista. Ecco, lei ha citato il presidente dell'IVAS, Salvatore Rossi, che però nella sua relazione annuale la settimana scorsa aveva anche messo in luce come rimanga un ampio divario tra i livelli delle tariffe RC Auto in Italia e quelli molto più bassi di altri paesi. Ha detto addirittura un fenomeno che sta assumendo una connotazione di ingiustizia grave. Ecco, c'è stato questo calo del 6%, però non c'è un margine per ridurre ulteriormente i premi, guardando perlomeno agli altri paesi europei? Allora, innanzitutto, di nuovo, fattualmente. La constatazione che fa il presidente Rossi è una constatazione che gli assicuratori hanno sempre fatto. È vero, in Italia il prezzo dell'aliquota è più alto che in altri paesi. Da che dipende? Qui è il punto, diciamo, su quale si discute. Noi assicuratori riteniamo che dipenda in maniera sostanziale dal fatto che in Italia ci sono più sinistri, o meglio, ci sono più incidenti, e diciamo il costo medio dei sinistri in Italia è più alto che in altri paesi. In sostanza identifichiamo due problemi. Il primo problema è il valore del risarcimento dei danni alla persona, il secondo è diciamo le frodi. Nella relazione del presidente Minucci ci si sofferma a lungo su tutte e due. Noi siamo convinti che se ci fossero interventi precisi in questi due campi, il prezzo delle auto potrebbe scendere molto e avvicinarsi a quello dei paesi europei. In particolare sottolineiamo, ma solo per una questione di tempo, il problema dell'approvazione della tabella per le lesioni gravi alla persona, perché abbiamo dichiarato a più riprese che a fronte di un'approvazione della tabella, che peraltro è oggetto di studi e riflessioni da 7 anni, il prezzo dell'auto scenderebbe immediatamente di un 3-5%. Quindi lei dice c'è un peso di comportamenti fraudolenti, talvolta anche con l'intervento della criminalità organizzata, è questo che pesa in qualche modo? C'è un peso molto forte, diciamo, di questo, soprattutto in certe aree del paese. Valutazioni medico, legali e dei tribunali, diciamo, non esattamente allineate a quelle di altri paesi. Vi faccio un esempio per capirci in maniera esplicita. Si dice spesso che la Francia ha un costo dell'auto inferiore al nostro, addirittura pari alla metà, vero. In Francia il numero dei morti sulle le macchine, i veicoli sono più o meno lo stesso numero, circa 40 milioni. Il numero dei morti è più o meno lo stesso sulle strade, 3.600. Il numero dei feriti, diciamo, è una proporzione da qualche centinaio di migliaia in Francia a 3 milioni e mezzo in Italia. Naturalmente in questa componente c'è tante cose. Diciamo valutazioni diverse della componente medico-legale, valutazioni diverse dei tribunali e in parte anche ovviamente attività speculativa. Nel segnalo che mi arrivano vari sms di ascoltatori che non vedono diminuire i prezzi, dicono ma dove sono diminuiti i prezzi, mai visti scendere il costo, saranno anche diminuite ma non nella mia città, insomma alcuni ascoltatori contestano il vostro dato. Ma un altro dato che mi ha molto impressionato è il fatto che ci siano oltre 3 milioni di veicoli non assicurati, con percentuali del 12% nelle province del sud, un picco del 30% a Napoli. Ecco, secondo lei non si può fare nulla contro questo grosso problema? Perché poi se ci sono degli incidenti uno non è assicurato, immagino ci siano dei grossissimi problemi. Innanzitutto sgombriamo il terreno, esista da possibile malinterpretazione. Noi abbiamo effettuato una stima sui veicoli non assicurati, che è appunto una stima con tutta la migliore intelligenza statistica che possiamo, ma ovviamente è una stima, nel senso che noi, diciamo, conosciamo quanti sono assicurati e quanto pagano le assicurazioni, non quelli che circolano senza assicurazione. Fatta questa stima, si può fare qualche cosa? Sì, tenga conto che in ogni caso incidenti fatti con veicoli non assicurati vengono rimborsati dal fondo vittime della strada, che è ancora pagato, diciamo, attraverso i premi degli assicurati tramite le compagnie di assicurazione, quindi comunque rimane la copertura anche in caso di incidente con un veicolo non assicurato. Naturalmente questa questione grava sui cittadini onesti, perché se qualcuno non si assicura e comunque nei rimborsi alla fine finisce sul premio dei cittadini che invece si assicurano, questo può creare delle disparità e anche dei comportamenti azzardati. Detto questo, si può fare di più? Sì, si può fare di più in due versanti. Un versante in appunto un aumento della capacità della lotta contro le frodi. Il secondo versante è collegato a questo, è la dematerializzazione dei contrassegni e in qualche modo una centralizzazione dei database che hanno tutte le informazioni sui veicoli, le assicurazioni e quant'altro. Sì, rapidamente perché dobbiamo chiudere. Ho finito. Prego, prego. No, e dopodiché ovviamente noi vorremmo ritornare rapidamente a situazioni diciamo più vicine a quelle dei nostri competitor europei e dei paesi, ma naturalmente noi riprendiamo, le abbiamo date le ricette, è il momento di prendersi le responsabilità. Il governo ha sul tavolo la questione delle tabelle, quella cosa lì ha va risolta, insomma. Va bene, senta, la ringrazio molto, grazie a Dario Focarelli, direttore generale dell'ANIA. Buonasera a lei. Grazie ed a ora andiamo con le notizie per chi viaggia. Sono le 17.52, questa è Focus Economia, io sono Enrico Brivio, vi ricordo il numero per i vostri sms 349-238-6666 e poi anche la pagina di Facebook. Vedo un po' di sms che continuano ad affermare che le assicurazioni in realtà continuano ad essere molto alti e questo i nostri ascoltatori sostengono, insomma. Nonostante il caso del 6% appunto registrato dall'ANIA nei premi. Per quanto riguarda la borsa, andiamo a vedere la borsa in questa giornata appunto di borse negative. Andiamo un po' più in dettaglio nelle notizie di borsa. Allora, abbiamo il FTSE All Share che è calato dello 0,54%, mentre il FTSE MIB del meno 0,61%. La giornata, come sapete, è stata, come abbiamo detto, caratterizzata un po' da tensioni in Grecia, da prese di beneficio. Anche altre piazze sono però andate anche peggio della piazza italiana. Il DAX 30 tedesco meno 0,92, il CAC 40 francese meno 0,66, c'è un po' quasi di rivincita insomma dei paesi mediterranei nei confronti della Germania, che perde ultimamente un po' di più in borsa, mentre invece abbiamo il Nasdaq che sta andando piuttosto bene, più 0,51, chissà che non sia un segnale di inversione di tendenza sulla piazza americana, 0,45 in positivo anche il Dow Jones, mentre il rapporto euro-dollaro è sempre attorno all'1,30 e 15. Ora andiamo a vedere rapidamente una prima tornata di titoli di borsa con Andrea Fontana, giornalista di Radio Core, Il Sole 24 Ore. Buonasera Andrea. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, io intanto partirei con una considerazione generale, insomma, su quale era oggi il mood in borsa. Beh, per quanto riguarda la giornata di oggi, la scarsità di dati macroeconomici ha fatto sì che anche l'andamento positivo di Tokyo questa mattina e quello che tu ricordavi di Wall Street nel pomeriggio non siano stati fattori sufficienti a dare la bussola alle borse europee. Le borse sono state pertanto incerte e soprattutto calanti e non hanno saputo dare seguito al rialzo di inizio settimana, al rialzo segnato nella seduta di ieri. Quindi da alcune sedute stiamo vedendo le borse che alternano un giorno di rialzo a un giorno di discesa. L'attenzione della settimana sarà però per l'ultima parte. Va bene, grazie Andrea, ci risentiamo dopo il GR per un'analisi un po' più dettagliata. Lascio il campo ora al GR. Buonasera, siamo a Focus Economia, io sono Enrico Brivio, il numero per i vostri sms è 349-238-6666 e poi vi ricordo la pagina di Facebook Focus Economia. Torniamo a parlare di borsa. Come dicevamo, una giornata in cui il FTSE All Share ha perso lo 0,54%, però ci sono segnali di ripresa che arrivano già dagli Stati Uniti, con un Dow Jones positivo dello 0,39% e un Nasdaq che sale dello 0,45%, euro-dollaro invece sull'1,30%. Ma adesso torniamo a vedere un po' più in dettaglio l'andamento dei titoli a Piazza Affari, e partirei da RCS perché sono appena arrivate delle dichiarazioni di Diego Della Valle, che si è detto prontissimo a fare la sua parte nell'ambito dell'aumento di capitale di RCS, però vuole dai soci conferma sullo scioglimento del patto, sulla revisione del piano e sui termini dell'aumento di capitale. Della Valle ha anche smentito le notizie di un incontro con John Elkann. Un incontro con Elkann non è mai stato in programma, sostenuto dalla Valle. Leggo che ci dovrebbe essere un incontro, ma non ne so nulla, e in questi giorni si leggono molte, forse troppe, cose. Ma io adesso torno in collegamento con Andrea Fontana di Radio Corso Le 24 Ore. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico. Per sapere se in effetti mi pare che RCS sia stato uno dei titoli molto comprati, no? Mi sai un po' dire qual è l'umore del mercato su questo? Beh, assolutamente, dopo il più 26% di oggi RCS ha infilato un altro rialzo dell'8%, quindi complessivamente, diciamo, dal rafforzamento di Fiat, almeno dal suo annuncio di venerdì avvenuto ai mercati chiusi, il titolo ha guadagnato il 36%. Chiaramente il mercato ragiona su quello che tu dicevi, cioè sulle strategie, sulle possibili mosse di Diego Della Valle, e dall'altro canto anche sul progetto, sulla strategia che Fiat vorrà mettere in atto dal punto di vista industriale una volta concluso questo investimento, senza dimenticare che poi ci sono anche altri ragionamenti, cioè sulla possibilità che un riassetto di questo tipo con un socio forte come Fiat rispetto al patto di sindacato molto frammentato c'era in precedenza possa obbligare i nuovi soci di riferimento a lanciare un'OPA sulla società. Quindi tutti questi ragionamenti contribuiscono all'effervescenza del titolo, che ha guadagnato l'8%. Sì, resta indubbiamente un titolo caldo, no? Mentre stranamente Fiat ha perso il 2%, no? Come lo si spiega? Ieri a mercati chiusi sono arrivate le indicazioni delle immatricolazioni in Italia del mese di giugno. Fiat ha fatto peggio del mercato, perdendo oltre il 15% nelle vendite di giugno, cioè registrando un calo di vendite del 15% rispetto a un mercato sceso del 5%. Non è andata molto bene anche sul mercato brasiliano. È vero che gli analisti sostengono che probabilmente siamo un po' alla fine, diciamo, della contrazione del mercato dell'auto. Ci sono tanti distinguo che si possono fare, ma senza dubbio, insomma, il dato reale concreto è questo, e il mercato ha penalizzato Fiat, peraltro dopo una giornata ieri che invece era stata abbastanza positiva per il titolo. Sì, e invece chi riprende un po' a sorridere dopo aver pianto molto è il titolo Saipem, no? Che ha recuperato, mi pare, il 4% dopo aver perso il 35% in un mese. Sì, Saipem sta ancora, diciamo, smaltendo gli effetti dell'allarme utili arrivato un paio di settimane fa, il secondo allarme utili dall'inizio dell'anno, quindi il titolo non si è ancora stabilizzato ed è soggetto a forti scossoni. Oggi, come tu ricordavi, ha guadagnato il 4%, nell'ultimo mese ha perso praticamente il 35%, quindi è un recupero che ci sta. Qualche analista sta già guardando le soglie tecniche, il titolo sta sopra 14 euro, qualche analista dice 15, fino a 15 euro può recuperare, dopodiché potrebbe essere soggetto a nuove vendite. Vedremo se queste riflessioni, queste indicazioni e previsioni saranno corrette e confermate dall'andamento dei prossimi giorni. Vedo poi che In campo energetico sono andate bene anche Terna, Enel Green Power, con aumenti dell'1,25-1,23%, qualcosa che ha a che vedere con il settore o con sviluppi legati alle aziende? Ma diciamo che sostanzialmente nella giornata di oggi c'è stato un settore delle utility, appunto i servizi di pubblica utilità, che ha sofferto meno di altri. A livello europeo ha perso lo 0,1%, mentre il settore energetico ha perso lo 0,6%. Le italiane hanno viaggiato abbastanza in controtendenza per motivi diversi. Le società delle reti Terna e Snam sono abbastanza premiate da alcune di case di investimento che le ritengono piuttosto importanti e pronte a spiccare un nuovo balzo verso l'alto anche in borsa, perché il business a livello europeo è ritenuto promettente perché non ancora completamente sviluppato, quindi con forti potenzialità. Dall'altro canto abbiamo un utility come A2A, che invece ha beneficiato da una parte di un forte successo di un bond da 500 milioni che è stato avviato nell'emissione questa mattina e ha avuto ordini molto forti. Dall'altro canto anche al completamento della società di impianti per lo smaltimento dei rifiuti da parte di A2A, che potrebbe poi essere diciamo ceduta parzialmente, cioè potrebbe esserne ceduta solo una quota, e questo permetterebbe ad A2A di proseguire nel piano di dismissione e di riduzione dell'indebitamento. Quindi fattori diversi e compositi che hanno influenzato in positivo il settore delle utility oggi. Quindi le utility sono andate bene, mentre Telecom è andata molto giù, forse perché si sono un po' sgonfiati quei rumors sui fondi del Qatar interessati? Beh, certamente questo elemento può aver influito, visto che ieri, almeno nella prima parte della seduta, aveva sostenuto il rialzo del titolo, quindi diciamo il fatto che sia sfumata questa ipotesi, almeno fino a questo momento, di un ingresso di fondi medio orientali o del Qatar nello specifico nella società delle reti, può essere stato un elemento per il calo di oggi. C'è da dire dall'altro canto che i due dossier forti di Telecom, cioè spin-off della rete telefonica e possibile integrazione con Tre Italia, stanno vivendo una fase di stallo che non piace al mercato. Il mercato aveva un po' premiato il titolo quando verso fine maggio sembrava esserci un'accelerazione. Questo non sta avvenendo dopo un mese e il mercato finisce un po' per penalizzare questo titolo, che ha bisogno di una scossa industriale strategica per poter poi appunto ben performare anche in borsa. Poi vedo alcuni titoli bancari che sono stati piuttosto tranquilli, mentre la Banca Popolare di Milano e la Banca Popolare Emilia Romagna sono in coda, insomma, nelle performance. Sì, le popolari stanno mostrando una forte volatilità, soprattutto al ribasso in questo periodo. Spesso le troviamo tra le migliori quando il mercato sale, quando magari gli spread un po' si riducono, ma poi sono spesso penalizzate. Non è un buon momento per il settore bancario in borsa, quantomeno nell'ultimo mese entrambe le popolari hanno perso oltre il 25%, addirittura la Popolare Emilia Romagna poco meno del 30%, ma anche gli altri bancari hanno sofferto. Unicredit nell'ultimo mese ha perso il 17% e il 15% Intesa San Paolo. Chiaramente non è un buon momento di bancari, qui gli occhi sono tutti puntati sulla conferenza stampa di Mario Draghi di giovedì, e quindi il settore finanziario resterà probabilmente col fiato sospeso fino a giovedì. Bene, grazie mille ad Andrea Fontana, buona serata. Buona serata a te, Enrico. Volendo un attimo rivedere, quindi la top 5 li abbiamo un po' nominati: sono stati Saipem con il 4,44%, Terna con l'1,25%, Enel Green Power 1,23%, Autogrill 0,94% e Snam 0,91%. Invece, tra i titoli che più hanno perso, Banca Popolare Milano meno 3,75%, Banca Popolare Emilia Romagna con un calo del 3,63%. 2,5%, Finmeccanica meno 2,96%, Fiat meno 2,10% e Mediolanum meno 1,85%. E a questo punto vi lascio con le notizie sul traffico. Buonasera, siamo all'ultimo segmento di Focus Economia, sono le 18:18, io sono Enrico Brivio, il numero per i vostri sms è 349-238-6666, vi ricordo anche la pagina di Facebook. E ora andiamo a parlare di un caso molto interessante, quello che riguarda il cambiamento dei vertici dello IOR. Lo IOR è la banca del Vaticano, un po' tutti lo sappiamo, dispone di un patrimonio di 6 miliardi di euro e risponde direttamente al Papa, e questo la rende un po' diciamo misteriosa ed affascinante in qualche modo, no? Ed è l'oggetto di tante, anche di tanti romanzi di varia natura, oltre che delle cronache finanziarie. Ma per andare a fondo su quello che è successo, che non è romanzo ma è realtà, e cioè le dimissioni del DG della Banca Vaticana Paolo Cipriani e del vice direttore Massimo Tulli, che si sono dimessi ieri sera, abbiamo con noi Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, oltre che autore proprio di un romanzo anche di ambienti vaticani molto bello. Buonasera Carlo. Buonasera a voi. Allora, questo cambio ai vertici, questa bufera giudiziaria sullo IOR che ha portato all'azzeramento del vertice, è qualcosa che ci si poteva attendere o un fulmine a ciel sereno? Allora, diciamo che nel caso specifico di ieri, le modalità con cui questo dimissionamento, direi, perché sono dimissioni ma insomma hanno un sapore di un licenziamento pilotato, sono state naturalmente improvvise. Tuttavia, dopo il caso ultimo scoppiato, quello venerdì scorso, dell'arresto del Monsignor Scarano, un Monsignore che lavorava in curia e appunto per quel traffico di denaro, corruzione, eccetera, che ancora è un'accusa naturalmente, ecco, diciamo che lì si fa un'escalation, perché anche se lo IOR in quanto tale c'entra fino a un certo punto ancora su questa vicenda specifica di venerdì, naturalmente ha messo in luce uno spaccato di movimenti, di persone, di un certo tipo di comportamento che ormai non era mai stato, diciamo, auspicato da nessuno in Vaticano, ma col nuovo corso di Papa Francesco era proprio ormai in aperta contraddizione. Quindi i vertici operativi, quindi direttore e vice, sono stati invitati a dimettersi proprio per avviare questo rinnovamento radicale che in qualche modo il Papa ha già avviato. Ecco, sì, tu ne avevi parlato al momento delle elezioni, mi ricordo nei tuoi articoli come altri vaticanisti, cioè che lo IOR era un po' un banco di prova per Papa Francesco e che sicuramente si sarebbe mosso in quel senso, quindi ci sono già stati degli atti con la nomina del presidente Ernst von Freiberg e con una commissione d'inchiesta sul passato dello IOR. Ecco, lo IOR come cambia volto con Papa Francesco, secondo te? Allora, Papa Francesco è insediato da 100 giorni, che come sappiamo in politica è una scadenza importante. I primi 100 giorni si fanno una questione, naturalmente il papato ragiona su dinamiche molto differenti, anche perché appunto il Papa non scade e quindi può operare, però invece si è mosso con molta rapidità. Nel caso specifico il presidente tedesco Ernst von Freiberg era stato nominato a Papa Ratzinger già dimesso ma ancora non uscito, quindi diciamo una nomina che non ha fatto bergoglio, e quindi infatti anche la sua posizione in questo momento è, diciamo, sub iudice. Ecco. Poi successivamente, quando il Papa si è insediato, di scandali non ne sono scoppiati di per sé, però l'aria era proprio cambiata, e in forza di questo il Papa ha nominato un suo uomo, ma non perché fosse un suo fedelissimo, perché era un monsignore di curia che l'ha messo dentro lo IOR in una carica vacante, si chiama prelato, questa carica che è una carica fondamentale, e successivamente, pochi giorni fa, ha insediato una commissione d'inchiesta, porta un altro nome, ma di fatto è una commissione d'inchiesta che solo a lui risponde, che dovrà indagare e verificare tutta l'attività dello IOR, andrà a fondo, quindi è questo è stato l'atto più forte che ha messo, diciamo, in mora tutto, diciamo, sia il funzionamento che l'attività che il vertice dello IOR. Poi, come sappiamo, è scoppiato il caso appunto del Monsignore arrestato e lì il Papa ha messo l'imprimatur a un'operazione di immediato ricambio. Ricambio ancora non c'è stato nel senso vero e proprio, sono stati nominati dei dirigenti che rispondono al Presidente, però evidentemente si tratta di una soluzione provvisoria. Il Papa ha avviato una riflessione sulla riforma della Curia tutta, dove le finanze vaticane avranno una preminenza più urgente, e lo IOR in particolare. Quindi finisce l'era dello IOR come un po' struttura opaca, misteriosa, e possiamo pensare a una trasformazione in una specie di banca etica? Pensi che il Papa pensi a qualcosa di simile? Allora sì, probabilmente, diciamo che questa commissione d'inchiesta fatta da due cardinali, due monsignori e una giurista americana, in questo caso famosa, e deve riflettere sia sulla riforma, appunto fare luce e riflettere sulla riforma. I risultati di questa riflessione saranno poi messi appunto all'attenzione del Papa. Lo IOR noi la chiamiamo banca, ma in effetti non è una vera e propria banca, perché non presta denaro, lo amministra solamente quando quello che gli viene dato in deposito da congregazioni religiose, dagli enti, dai dicasteri vaticani, dai dipendenti del Vaticano, dai cardinali. Purtroppo il confine fra l'Italia e il Vaticano è molto poroso, nel senso che attraverso molti canali sono affluiti soldi. Purtroppo abbiamo saputo i casi famosi di Tangenti, dall'Enimont, fino ad arrivare all'inchiesta dei grandi appalti di 3 anni fa, coinvolti gentiluomini di sua santità, personaggi eminenti, per lo più italiani, che alcuni di loro, pochi per la verità, ma sono stati coinvolti. Quindi diciamo che evidentemente vanno riscritte le regole prima di chi può accedere a questo istituto per depositare o far transitare il proprio denaro, e secondo, renderlo trasparente, soprattutto per interesse del Vaticano. Naturalmente anche l'Italia in particolare ha interesse, perché è l'Italia, diciamo, il confinante vero anche dal punto di vista bancario del Vaticano, quindi dello IOR. Quindi noi italiani, diciamo, le autorità italiane sono le prime ad essere interessate. La Banca d'Italia infatti è stata molto, molto dura su questo fronte con il Vaticano. A dicembre scorso impose la chiusura dei bancomat gestiti da una banca italiana in Vaticano, proprio perché il Vaticano non aveva regole di trasparenza sufficienti. Cosa diventerà ancora è sotto riflessione. Diciamo che una banca etica non come la concepiamo noi in Italia, cioè che per esempio presta denaro ad aziende che non finanziano o che non costruiscono armi o altre cose di questo tipo. Diciamo più che altro ricondurla alla sua missione originale di quando nacque, cioè di far arrivare il denaro raccolto dalle offerte o fatto arrivare alla Chiesa in vario modo, licito, e farlo arrivare alle opere di religione. IOR vuol dire quello, istituto per le opere di religione, quindi farlo arrivare alle missioni invece che alle diocesi bisognose o ad altre realtà. Questo è il suo ruolo e il Papa questo vuole realizzare. Il Papa ha una grande considerazione dello IOR, perché quando ci fu la crisi drammatica dell'Argentina nel 2000 e le diocesi dell'Argentina erano in grave difficoltà, ma lo IOR intervenne anche positivamente, quindi diciamo non è che è tutto malaffare, anzi la maggior parte non è malaffare, però purtroppo i fatti che si vengono alla luce gettano un'ombra su tutto, e come sempre accade a quel punto, diciamo, necessita un'azione veramente di forza. Quindi diciamo che si cerca, insomma, di chiudere il capitolo dell'opacità, perché ricordiamo appunto che poi quello scandalo di cui si parlava era proprio una violazione di norme anti-riciclaggio con operazioni bancarie nel trasferimento di 20 milioni di euro dalla Svizzera, no? Quindi esattamente, allora, questa qui ultima, nel caso specifico, non c'è, come dicevo, ancora il ruolo dello IOR deve essere verificato. Questa vicenda nasce da un'inchiesta sullo IOR, che nasce invece nel 2010, su un trasferimento di denaro da una banca italiana, dallo IOR a una banca italiana e poi a una banca tedesca, avvenuto con regole, con modalità che non hanno rispettato le norme italiane sull'antiriciclaggio. E all'epoca fu messo sotto inchiesta l'allora presidente Gozi Tedeschi e il direttore generale Cipriani, quello che ieri si è dimesso. E quindi ecco, diciamo, nasce da lì l'inchiesta. Peraltro quello che emerge è che appunto la posizione dell'ex presidente Gozi Tedeschi è chiarita, si va a fare verso l'archiviazione, mentre sulla posizione di Cipriani, a quanto ci risulta, ancora, diciamo, i magistrati di Roma stanno indagando. Va bene, grazie mille a Carlo Marroni. Grazie a voi, buon lavoro. E quindi chiudiamo qui, ci sentiamo domani con Focus Economia poco dopo le 17. Grazie in redazione a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi e in regia a Paolo Corleoni. Buona serata. Radio 24. La passione si sente.